Hadith numero 18. Abu Dharr, Jundum bin Junada e Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal, che Allah sia compiaciuto di ambedue, hanno trasmesso che l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: ovunque tu sia, temi Allah e fa seguire alla cattiva azione quella buona che la cancellerà. Tratta la gente con un buon comportamento. L'ha riportato a Tirmidhi, che ha detto: è un hadith buono, Hasan, e in alcuni testi è classificato buono e autentico, Hasanun Sahih. Le prime fonti di questo hadith sono Abu Dharr Jundum bin Junada e Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal, che Allah sia compiaciuto di ambedue.